Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Però, insomma, il fatto che lei non dica, beh, mio padre ha sbagliato, e insomma, mi colpisce. Ma perché lo devo dire io? Cioè, perché dovrei dire che mio padre ha sbagliato? Per questo c'è, come ha detto, lo Stato. Non tocca a me. Non nessuno pensi di aver ascoltato le parole di un figlio. Ieri sera abbiamo ascoltato le parole di un mafioso condannato tale che ha portato anche la voce del padre, che è il capo della mafia. Non sono stati fatti i pagamenti, giuro, ci mancherebbe altro. La liberatoria è stata firmata alla fine, ma le domande sono state fatte in libertà. Quindi le domande sono state fatte in libertà dal giornalista e la liberatoria è stata firmata alla fine dell'intervista. Quest'ultimo è Campo Dall'Orto, direttore generale della RAI, amministratore delegato della RAI. Che si trova questa piccola patatina bollente? Non vorrei essere accusato di mafiosità anch'io per la sigla del Padrino, ma a questo punto dobbiamo stare attenti e vedere come ci muoviamo, perché stanno rischiando, lo dico, lo so, è forte, questa è forte, preparatevi, sono le 6:31 ed è venerdì, è forte, ma stanno rischiando con questa polemica di farmi diventare simpatico Riina Junior. Junior, per carità, ieri ho detto Junior ancora, ma mi hanno subissato anche Tiziana Maiolo, che saluta e abbraccio, è latino, Junior, se no tu saresti Alessandro Milan, non Milan, non Junior all'americana, va bene, però io dico sempre Summit, che è latino, e quando dicono Summit nessuno mi rompe i maroni, però va bene così, dai. Però attenzione, vabbè, sto divagando, cioè, non lo so, trovo francamente un pochino esagerata tutta questa polemica. Vabbè, volete cacciare Bruno Vespa dalla RAI? Ma ditelo, volete silenziare Bruno Vespa, toglierlo? Magari qualcuno dice, meno male, dopo un po' ha rotto anche lui, va bene, cioè, ma andate dritto al punto. O se c'è una cosa che la radio mi ha insegnato, porca miseria, dovrebbe insegnarlo a tutto il mondo, è la sintesi. Niente fronzoli, efficacia, andare dritto al punto. Pam! Vogliono fare fuori Bruno Vespa? Ditelo! Così, Bruno Vespa ha rotto i coglioni. Ditelo così, basta, non deve più fare queste cose, porta a porta ha stancato. E quindi prendiamo il pretesto di questa intervista a Riina Junior, Junior, e basta, porta a porta stancato, bisogna rinnovare, e su questo posso anche seguirvi, rinnovare, cambiare. Ho iniziato così oggi, ma è venerdì d'altronde, Emanuele Brignoli è arrivato dicendo è venerdì, è la prima settimana che si sveglia a quest'ora, arriva e dice però è venerdì, vabbè. Saluto Peter Bescapè in regia, devo subito convocare uno che avrà qualcosa da dire anche per, come dire, vicinanza territoriale. Visto che sta spesso a Mondello, è il nostro grandissimo amico palermitano Romano Vincino. Vincenzino, come stai? Benissimo. Adesso voglio... Tra poco mi dici tutto, eh? Va bene. Sei carico a pallettoni? Sì, più o meno. Nota la battuta brutta, veramente. No, vabbè, insomma. Sei... No, adesso me lo dici, su... Ma hai un'idea compiuta su questa cosa? Dimmelo subito, dai. Io mi ricordo, però insomma, perché ero troppo piccolo, ma nel 49 una grande giornalista americana scese e intervistò Giuliano. Sì, direttamente da latitante, ed ebbe, credo, non so se avrebbe il primo Pulitzer o qualcosa di simile. Ma fu un'intervista che fece capire tantissimo della Sicilia. Poi Liggio, ce ne sono tante interviste, ed è uno dei modi per capire. E poi perché te la ricordi questa di Enzo Biagi che intervistò? Lui era il pentito. Chi è il pentito numero uno? Dillo tu. Tommaso Buscetta. Eccolo qua. Mafioso a 100 carati. Sentilo qua, te lo ricordi? Tommaso Buscetta, come vive un ex mafioso che ha parlato? È una domanda. Non era ex, Tu subito vuoi contestare Enzo Biagi? No, non contesto Biagi, ma non ci sono ex mafiosi, così non è che pure uno... nessuno ha detto, ma come Enzo Biagi gli ha dato dell'ex mafioso? Esattamente, se era Enzo Biagi nessuno avrebbe detto nulla. Sì. Ma perché, scusami, Santoro non ha intervistato il figlio di Ciancimino tantissimo, mafioso lui è figlio di mafioso? Lo ritiriamo subito perché mi è scappato quello, anche è l'orario, chiediamo scusa. Anche se il tritolo l'aveva lui a casa, non è che lo portava lui, però Ciancimino era il capo della mafia, era un capo tra i capi della mafia pure lui come dottor Rina, però siccome l'ha fatto Santoro, ma è insopportabile, allora Vincino, fammi salutare subito la mitica nostra Aurorina, che lei dalle Lande Padane, lei che è incinta, lei che aspetta una bimba, ma cosa vuoi che gliene freghi della mafia a lei? Buongiorno caro Mira, cosa? Un caro saluto a te e al nostro Vincino. Chi è che sta ululando dietro di te? No, la mattina metto su un po' di Callas, la luce di Lammermoor, la un Lucia po' di cultura di occidentale. Ma sì. certo, Maria Callas, lo ripeto perché Peter Biscapè, voi pensate che sia preordinata la cosa, invece noi lo scopriamo in diretta, la segna. Maria Callas, Lucia di Lammermoor. Beh, parliamo del Donizetti che l'era de Berghe, eccola qua, non è proprio la Callas questa, Peter, però è una Callas un po' più no, lo so, perché fra un po' dovremo ascoltare il muezzin in preghiera la mattina. Commento quindi... di Peter Biscapè, ma dura due ore sto file, la Lucia di Lammermoor, sto file dura due ore, straordinario. No, vabbè, cosa vuoi, la mafia qua al nord è arrivata, sai, hanno messo quelli biozzieri del soggiorno obbligato al nord, ricordi quegli anni lì. Portato su tutta questa gentaglia qui della mafia. Però posso dire una roba, sono d'accordo con voi, siete due persone coraggiose a difendere quello che è successo l'altra sera. Ma io lo dico chiaramente. Se Salvatore Riina, se Riina Junior o Junior, insomma quello lì, volesse venire qui a 24 mattino intervistato, ma come, manchi no? Ma sì! No, ma posso dire una roba? Secondo me in quell'intervista lì si svela uno squallore umano dei figli dei mafiosi che ce li fa disprezzare ancora di più. Ma è appunto, sono allora, le fiction che rendono epica e shakespeariana la mafia, no? Creando il mito del mafioso. Cioè, io ho visto questo ragazzotto qui che anche quel barlume magari di intelligenza che speravo di vedere nel figlio del mafioso non ha visto. Vincino ce l'ha con le fiction come Berlusconi, ti ricordi Berlusconi? Ma perché rendono shakespeariane drammatiche, a te piacciono? Ma è vera sta cosa, Vincino? Ma è interessante, però guardate che questa roba delle fiction che rendono queste qua, quella sul capo della mafia, no, era ridicola e grottesca assolutamente. Gomorra in parte sì, La fiction di Gomorra, sì. Gomorra rende... è straordinario. Non capisco quello che dicono, sa anche quello. Ma non capisci qua, ma lei sì, sottotitoli in bergamasco? Sottotitoli, no, no, in italiano sono i sottotitoli. No, in Bergamo, ma lei magari non vorrebbe in bergamasco, non lo so. Scusa, come l'albero degli zoccoli sottotitolato in italiano, non ho capito perché i film della mafia non devono essere... Vabbè, non li capisci. No, ma non mi capisci. Guarda, sono più vicina ai popoli nomadi della tundra che alla sottocultura mafiosa. Che devi dire. Comunque, Vincino, la mafia c'è al nord perché l'avete portata voi del sud. Questo è ma no, questa l'abbiamo, lo Stato scientificamente l'ha diffusa. Ha ragione lei, col soggiorno obbligato. No? Abbiamo mandati tutti là, in tutti i paesini tutti del là, nord, tutti. Dove ognuno ha costruito le sue relazioni, no? Perché poi, come dire, li ha mandati liberi praticamente, insomma, dovevano presentarsi, non so, ogni tanto in questura e basta, e il resto della giornata facevano gli affari loro. Come, questa è stata una cosa demenziale, totale dello Stato italiano. Ma, sì, bravo, anche se mi fai nelle vignette la Le Pen col tailleur fucsia, bravo, stamattina bravo. Fai la Le Pen col tailleur fucsia, perché? Ma perché? Ma la Le Pen quella che c'ha i soldi? Forse. No, perché tesoro di Mussolini. Forse a Panama. Comunque, a proposito di mafia, io l'ho detto, ragazzi, dacci oggi l'intercettazione quotidiana. So che Vincino sarà subito arrabbiato. Però voi al Foglio siete contro le intercettazioni, però fai le vignette sulla Guidi, la sguattera del Guatemala. È bello, però è divertente. No, la sguattera del Guatemala, no, assolutamente no. La mia, ho fatto un disegno che diceva solo una cosa, che non l'ho fatto sul foglio, te l'ho mandato stamattina, okay. Che, come dire, chiunque non lo so, ma io al posto della Guidi alla prima cosa richiesta l'avrei detto a Renzi: guarda, c'è uno che mi rompe le scatole, non so come fare, e l'avrei mandato al diavolo. Ma è il suo compagno, il papà di suo figlio. Ho capito, ma il papà di tuo figlio, se ti chiede delle cose non lecite, glielo diceva in un'intercettazione, ha detto: tu fai, ridisfi, ma di cosa provo io non te ne frega niente. Questo per una donna, Aurora, per una donna, la uccide quotidianamente, la mortifica. Sì, mi ha fatto una tristezza sta donna, così ricca, così potente. Povera, no, umanamente, ecco. Tu, per esempio, che sei sposata con l'onorevole Molteni, allora diciamolo francamente, che telefonate di potere gli fai? Nicola, devi fare questa, ma l'uomo giustamente lui dirà: ma certo, cara, ma subito, no, tesoro, remissivo, giusto. No, guarda, innanzitutto ho scelto un brianzolo con la schiena dritta, non è che ti posso dire, fate che la squadra non ce l'ho, e quindi vabbè. No, l'unica roba, no, gli chiedo quasi magari di Cantù, di quello che succede a Roma, quelle robe lì. Poi di magari Cantù, che vita hanno, Vincino? No, ma a parte questi, che se sono le mie intercettazioni vado sulla sedia elettrica, però fa niente. Ma per quello che, ma non per i reati, per quello che dico, per quelle persone, su quelle robe lì, sui miei giudizi. Anche su di noi? Su di me? No. Su Vincino, di la verità. No. Dai, qualche volta devo fare la trasmissione con quel Terun lì anche domani. Dai, qualche volta ti sarà scappato. Sì, quel Terulli che fa la roba fucsia della Le Pen. Vincino, guarda che secondo me... Povera ex ministra. No, comunque, però aspettate, dacci oggi l'intercettazione quotidiana. L'intercettazione del giorno è quella di Gemelli, il compagno della Guidi, che dice a un certo punto: questi che vivono col cognome dei martiri mi fanno schifo. La Borsellino andrebbe eliminata. Punto. Il primo, sì. In realtà Crocetta non si è mai dimostrato, anzi. Su questa mistica dell'antimafia anche io ho avuto perplessità, nel senso che la mafia si combatte seriamente, non con la retorica dell'antimafia. Sì. Però ecco, lui più che altro mi sembra un po' che l'hanno paragonato con quei ragazzotti di provincia che riescono nella grande ascesa sociale sposando magari le figlie dei potenti, no? Cos'è Bellamy, de Maupassant, quel genere letterario lì. Bravo il ragazzo, così da Augusta è riuscito insomma a fare la sua scalata politica. Qua le intercettazioni, sto leggendo qua, Gianluca Cacchè non è il bel amico, dice, no? cioè, arrampicatore, ti sembra un arrampicatore sociale? Ma no, non lo so, non lo conosco, lo so, però te, Vincino, guarda, questa io cosa... Io conosco, guarda, i disgraziati siciliani, siracusani di 30-40 anni, sultani, così, sono insopportabili. Perché è di Palermo, questo... è di Palermo. Ma no, ma beh, sì, ma sono, ce ne sono anche a Palermo, non è che pochi, di però meno... Però Siracusa un po' di più. Siracusa e Catania di più. Di più, ma proprio certo. Sono una cosa, guarda, da, sono terribili, non... Terribile. Assolutamente, mamma mia, insopportabile. Vabbè, ce l'abbiamo, abbiamo sistemato anche Siracusa oltre che Catania, come al solito. Comunque, questa storia della Rai non so come finirà. Forse silenzieranno Vespa, forse rinnoveranno. Boh, non lo so. Vai, comunque, chiedo a tutti: voi avete soldi a Panama? State esitando, state balbettando. Pochi soldi in generale, ma soprattutto magari avessi soldi a Panama. Lo so, questo infatti lo dico sempre anch'io. Secondo me mi hanno scritto, tu ci sei dentro a Twitter, io rispondo, ma magari avessi dei soldi a Panama. Ma Mila, però... ma tu lo sai che io sono attratta da altre cose, non dai soldi, lo sai. Da che cosa? Aurora? No, nel senso che sono attratta da altre cose, uno ci avrà. Da che cosa? E altre cose della vita più belle, tutte le pressioni sui ministri, non le leggi Vincino, quelle robe da che qui, cosa eh? Sarà tratta Aurora? Dal bollito alla coda, non so, da qualche piatto particolare. La carne. Dalla carne. Ridategli una radio, non lo so. Radio Padania c'è ancora. C'è ancora? Sì. No, vabbè. Ma che cosa sei attratta allora? Ma no, il cervello umano è molto sviluppato, c'è una parte rettiliana, quella della sopravvivenza, della fuga, della sessualità, un cervello limbico, quello delle emozioni, poi c'è la corteccia, quella dell'intelligenza, della creatività. Te qual è più sviluppata? No. Ma così, ognuno sviluppa la parte del cervello che più assomiglia alla propria anima, forse. Senti, no, non le leggi le robe sulle pressioni qui. Allora qua. No, vabbè. Degli ululati, dei... Le mettiamo sì, come dire, le mettiamo la colonna sonora. Radio tibetana, non lo mitico. So. No, radio tibetana, no. Era il film Eyes Wide Shut. Su, insomma, vi lasciamo con questo mistero, andiamo al traffico. Amone, Milan, rimenati, traffico. Oh, Alino! Ma possibile che noi dobbiamo sempre farci notare anche all'estero? Adesso anche la sguattera del Guatemala. Ma la guidi, bastava che citava la massaia di Voghera che era a posto. È Cribbio! Alessandro Milan, ma quanti eurini hai portato in Panama, furbone? Ma cosa si aspettavano dal figlio di Rina? Che dicessero, mio padre è un delinquente? Bravo Vespa, bravo. Uè, Alessandro, io apri gli occhi a leggere il giornale, cerca di essere imparziale. Beh, ti saluto, state buono. Luigi, dialetto pugliese, ciao Milan. Alessandro Milan, stuzzica la supercazzola prematurata e blinda il parapia tapioco come se fosse Antani per 3, o 4 se postergate. Demo, dai Milan, dai, che sei tardi, cosa te vuoi leggere 4 giornali? Vedete, questo è uno spaccato d'Italia che è così, caro Vincino, alcuni li hai capiti, altri no, insomma, effettivamente questa della sguattera del Guatemala, ragazzi, sapete che oggi sulla stampa c'è una guatemalteca che scrive al ministro Guidi, io orgoglioso, cioè, vabbè, c'ha ragione, vabbè, comunque avete i soldi a Panama, torniamo a bomba, no? No, anche a però ma tutto allora, pur di non parlare dei ricatti nel governo, né? E dei dossier dei governi. No, ma parliamone, c'è Del Rio. Ma cosa stai dicendo? Ma mi accusa di volta in volta di essere quello che fa comodo a lei. È insopportabile, Vincino. Sarà la gravidanza che. Entrano gli ormoni. Tra l'altro, tu hai proposto di chiamarla Rosalia. Italia, Vincino. Hai altri suggerimenti? L'hanno scelto. No, Agata. Però non è di Catania, per cui l'altro nome è Agata, eppure è bello, ha una sua. Agata. L'hanno scelto. Agata Rosalia, dai, andava bene. L'hanno scelto. Una scelta che hanno scelto. No, lo scegliamo noi, non hai capito? Rimaniamo fermi su Rosalia. Rosalia, anzi, vi prego, dovete mandare, stanno un po' latitando, al 349-238-6666, via WhatsApp meglio, in audio, le proposte del nome della figlia di Aurora Lussana. Come la chiamiamo, questa benedetta figliuola? Voi cosa pensereste che poi non succederà, Aurora? Ma chiamarla? Succederà la provvidenza, guarda. Provvidenza è bello. Come si chiamava quella di Don Abbondio, la sguattera di Don Abbondio? Non lo so, mi cogli impreparato, mi merito subito un 5. Non è Provvidenza, credo. Poi mi ricordo male, ma... No, non ci siamo proprio. La vera protagonista dei Promessi Sposi è la Provvidenza con la P maiuscola. Oppure potreste chiamarla Barlamenta, mi dicono. O Perpetua. La perpetua, certo. Non è un nome. Oppure, no, esatto, la perpetua non è un nome, però voi perpetua con la P maiuscola. Oppure Sofia, mi suggerisco con la PH però. Sofia, troppo greco, latino greco. Vabbè, però no. Comunque, Prassede, comunque... eccola qua, Prassede. Ma studiatelo il Manzone, ragazzi. Donna Prassede era una donna ignobile. È quella che ha aiutato Lucia quando è scappata, giusto? A Milano. Lei aveva il monopolio della bontà e cercava di aiutare il prossimo, sai, ma solo per appagare un egoismo individuale. Sai troppe cose. Allora, vi voglio dire di questa notizia. Adesso arrivano tanti nomi. Maria Elena. Aurora. Lo so che la tappiasla, Maria Elena. Comunque, tutto per non leggere il dossier su di me, trame contro lo Stato, dice Del Rio. Ma lo leggerò, sarà il piatto forte della rassegna stampa. Allora devo aspettare. Sì, effettivamente Vincino è un bel clan, si vogliono bene al governo, tra figli di, pezzi di... È terribile questo, perché lui correva avanti e di dietro aveva una folla che si pugnalava, toccava, faceva. Era una moda incredibile, guarda, questa cosa. Cioè lui qua, è Renzi, lui è Renzi. Come dire, dovrebbe fermarsi un attimo, guardarsi intorno e raccogliere il sangue. Quattro schiaffi, buttarne fuori la metà, tre quarti e mettere dentro Bersani allo sviluppo, che è stato un bravo ministro all'industria, come al MISE, no? D'Alema agli esteri, Vincino, sai cosa sono queste? Te lo dice De Luca. Queste sono babbarie. Babbarie. La prima una B sola, la seconda con due B. Una B e poi due in mezzo. Babbarie. C'è l'intervista a Bersani oggi, stavo leggendo. È vero. Vieni qua a fare la segna stampa, fai pure. Ha detto che Bersani ancora, Renzi non ha il fisico, è fissato questo fisico di Renzi. Vabbè, ha messo su un po' di chili. Comunque io vi devo far sentire questa. Allora, tu, cara Aurora, sei di Bergamo. Quindi sei tifosa dell'Atalanta. Certo, tu sai chi è il Boccia. Ma chi è che non lo conosce il Boccia Galimberti? Vincino, sai chi è il Boccia Galimberti? No, l'ho visto ora qua su... Sì. Il Boccia Galimberti. Hai twittato una cosa. Sì, il Boccia Galimberti. No, perché io ho provato, un giorno mi sono recuperato il cellulare di il Boccia Galimberti. Uno che c'ha, credo, 35 DASPO. Il capo il sorvegliato speciale. Sì, ma non dirlo sì, ma certo, grande Boccia, bravo Boccia. Cioè, non lo so. Allora, cosa succede? La notizia è questa: il Boccia, che non può entrare in uno stadio italiano, può entrare al Senato. E già qui la notizia potrebbe essere conclusa. Perché? Perché sono in calzoncini al Senato, scusami. No, infatti. Brava Aurora. Cioè, non può entrare in uno stadio.